dedicato a Tiziano Terzani e non solo, con il motivo filo conduttore è che il problema è culturale. Chiaro. Allora, quindi è... il problema è culturale, dobbiamo ripartire, allora andiamo oltre. Perché ho accolto questa frase di un vecchio figlio dei fiori che è deceduto per la cattiveria degli abitanti della frazione di Sorano, dove lui viveva e operava in un circolo, un famoso circolo verde, per chi lo conosce, perseguitato per troppa bellezza, ed essendo un vero figlio dei fiori, delicato, gentile, educato, tutte le qualità possibili, e indifeso dalle cattiverie. La bellezza della sua attività culturale gli ha fatto fare dei nemici, religiosi della sua bellezza. Tanto hanno fatto che alla fine si è ammalato di malattia grave e a lui è dedicato il festival come eroe dei nostri giorni. E Tiziano Terzani è l'eroe dei giorni passati, ma non solo, anche del futuro. E quindi a una società, a un paese ufficiale, tornare ridotto a macerie il paese in cui anche il paese ufficiale opera e vive. Le macerie riguardano anche il paese ufficiale della cultura, dell'editoria. Da queste macerie si può rinascere, e si può rinascere, secondo me, e qui entra in ballo Alessandro e gli altri scrittori delle strade bianche di Santo Genovese, si rinasce a partire dal cibo per la mente. Il cibo primario per la mente è la letteratura, la grande letteratura del passato da recuperare, e la nuova letteratura, purché sia grande di qualità editorialmente, al contrario di quella di regime. Quindi tutto torna, oggi si riparte per ricostruire bellezza, antagonismo, resistenza, lotta e qualità della vita dalla cultura, specificatamente dalla letteratura, specificatamente dalla grande letteratura del Novecento, ma anche di prima, ed in particolare quella dei giorni nostri, che non è certo quello del Premio Strega. E qui chiudo: il Premio Strega, che è il premio più prestigioso del regime editoriale italiano, perpetua ormai da anni un balletto. Vince Rizzoli, vince Mondadori, vince Mondadori piuttosto che Rizzoli. Quest'anno, con l'inciucio per i Contardistinti, hanno premiato. Mi dicono, io non li ho letti, confesso, però ne ho parlato molto con chi li ha letti e frequenta la libreria di Pitigliano, in Strade Bianche. Sono libri scritti male, in cui non è stato fatto editing e nemmeno correzione. Ha vinto un editore che non sia Rizzoli o Mondadori, perché c'è ormai l'editoria in mano a un delinquente naturale che ha, in maniera diretta o in maniera indiretta, acquisito tutta quella che una volta era grande editoria. Guanda, che è l'editore della vincitrice del Premio Strega, che secondo me, per sentito dire, ma da lettori seri, da critici seri, non sa scrivere e il libro non è stato fatto editing, non è stato corretto, e Guanda perché Mondadori e Rizzoli e Einaudi e Rizzoli hanno deciso che era troppo sporca far vincere uno di loro, e hanno fatto vincere Guanda, che è intricata alle sigle del direttore del delinquente naturale. Non la faccio più lunga di questa, quindi la domanda credo di aver risposto, però poi possiamo fare intorno a questo dopo. Di cosa parla il libro? Chi ne parla? Andrea? Io. Io sono tra quelli che non è alto tra mano. Ancora non l'ho visto. Non l'ho ancora letto. Ok, va bene. Il libro parla di te, fondamentalmente. È un'altra delle vicende della tua vita. Fai l'insegnante, fai hai la vita normale, c'hai cioè il figlio più o meno normale, c'hai cioè i figli, no? Anche abiti in provincia, momento. Ma come a un certo punto succede un due fatto figli, incredibile, incredibile. Cioè, smontano una cabina telefonica, esatto. Una qualsiasi di quelle che sono per Grosseto non servono più, se non che smontano la sua cabina telefonica, cioè quella dove hai telefonato la prima volta all'amorosa. quella dove ti sei rifugiato quando avevi 15 anni, la prima volta hai fatto sega a scuola e diluviava, tipo. Queste cose qui che succedono. Quelle scherzi delle porte. Queste cose qui. Allora, tutti cosa faremmo? E la smantella, decidi di smantella. La smantella, tolgo. C'è proprio là. Un biglietto con scritto, questa camera verrà rimossa il giorno. E lei mi dico, cavolo, ma è possibile che levano la camera così, senza chiedere a chi ha telefonato? Questa è la mia permesso. A chi l'ha vissuto, proprio. Perché poi sarebbe stato bello anche fare la presentazione dentro questa cabina. Era lo spazio che... Ci vede lo stesso. Per cui, esattamente, il nucleo narrativo centrale è proprio questo. Da questo episodio, da questo fatto, ho deciso di scrivere questo racconto. E poi il terzo di una trilogia, no? La trilogia a cui stiamo cercando di dare un nome. Il primo è stato Io non sono la Hop, quello verde. Il secondo è Sotto Mutuo e il terzo appunto si chiama Dius, in omaggio anche a Piero Ciampi. Mettiamo lì un po' di cose, quindi noi poi successivamente, dopo che riusciremo a produrre le frasi di senso compiuto, vi faremo ascoltare delle cover. Cover è brutto, delle canzoni. Cover è brutto, delle canzoni. Questi sono tre libri pubblicati da Marcello Paraghini di Stampa Alternativa. Gli ultimi tre, ce ne sono altri due alle spalle. Sì, gli altri. Uno è questo. Questi tre libri della trilogia, sono questi tre, tranne quello giallo rosso, fanno parte di un progetto editoriale, insomma, coraggioso, no? Che ci ha messo tutti duramente alla prova, per questo si perché lo fanno. Perché comunque è un progetto. Perché non siamo andati sulle pagine di Repubblica. Non ne ha parlato Corrado Augias, non ha parlato nessuna trasmissione radiofonica, televisiva o quant'altro, né abbiamo battuto strade, posti, marciapiedi per affermare che cosa. Che per esempio il primo della trilogia, il quinto della serie, ha fatto un passo indietro. Questi libri sono rivoluzione editoriale, senza se e senza ma. Non hanno codice a barre, che da solo vale un manifesto. Io come editore al contrario esco dal regime editoriale, esco dalle librerie, esco dalla grande distribuzione e torno alla mafia dopo 50 anni di onorata attività e spregiudicata attività editoriale. Non ha codice a barre, c'è una scritta che dice no copyright. Questo libro, d'accordo con Alessandra e altri scrittori, c'è Daniela, c'è Roberta, è gratis in rete prima ancora dell'edizione cartacea. Il libro viene liberato dalle sue sbarre, va in internet e diventa bene dell'umanità. Dopodiché si fa una tiratura e qual è la ricompensa di Alessandro? Che Alessandro, a fronte di una fattura della tipografia, non l'ha mai visto, garantisco, ha tenuto a metà della tiratura. Quindi tutto è un'operazione. Con queste clausole, questo libro ha fatto 5.000 scaricamenti. 5.000. Tutti io li ho fatti. Sono il vero popolo nel mio sogno di follia. Io vorrei 1.000.000 di scaricamenti e magari una copia cartacea venduta. Non mi importa se la copia cartacea è solo una, mi importa dei 5.000.000 di scaricamenti di lettori che lo scaricano e lo leggono, perché chi lo scarica può lo legge, perché non spreca carta per non leggerlo. E quindi è questa la strada della la mia idea della rivoluzione editoriale, anche di essere oggi editore all'incontrario, tornare alla macchia. E i risultati di questi mesi o di questi primi 2 anni sono esaltanti, tant'è che annuncio ad Alessandro e a chi mi conosce che dai prossimi mesi, forse dal festival, tutti i libri della mia nuova casa editrice, che si chiama Le Strade Bianche di Stampa Alternativa, verranno proposti con la clausola il prezzo lo fa il lettore. Non voglio più occupare marciapiedi, posti, qualsiasi posto e trattare l'acquisto o la vendita dei libri. Io piazzerò la mia ciotola trasparente con la dicitura il prezzo lo fai tu. Dei 40-50 titoli del catalogo dei primi 2 anni sceglierà chi vorrà uno o più titoli, metterà i soldi e basta. Alcuni sono qui, li potete vedere, comprare, offrire e consultare. Quindi progetto interessante, è coraggioso, è quello che sostanzialmente di cui abbiamo faccio le crisi, non sono attori che si facciano carico di questo. Un diretto lo sposino e legano lì, anche perché la scommessa nostra è su pubblicità e poi sulla carta, no? È sulla scrittura, insomma, non è tanto un progetto a fine di lucro il nostro, ma proprio un progetto culturale, no? Invitazione alla lettura. Insomma, tre libri che parlano di vita vissuta, autobiografici, che mi hanno creato anche diversi problemi, insomma, vicini di casa che non mi salutano più, librai che non mi rispondono al telefono, non pagano le copie del libro. A parte quelli librai, quelli virtuosi, insomma, scusi, per esempio, come gli si incazzano. Tra l'altro noi così non andiamo in libreria perché per scelta non abbiamo un distributore ufficiale però perché l'abbiamo sviluppato, però io non li studiamo, però allo stesso tempo non li studiamo che il libraio richiede copie, ma alle nostre condizioni di darci metà del prezzo di copertina anticipatamente devono darci rete e accetti di non avere il codice a barre. Il codice a barre non è obbligatorio, è il mercato che lo vuole. Se non si è il codice bar si è fuori dal mercato, quindi ci vado io, non ho bisogno di un obbligativo. Però il libraio è ancorato alla vecchiaia del suo lavoro, alla stanchezza, alla disperazione del suo lavoro, deve accettare, come avvenne per i libri 1000 lire negli anni 90, che la copia, le due copie, le tre copie, io gli do il 50%, mi deve dare i soldi quando gli porto le copie e non mi deve dare copie indietro. Quindi si recupera anche il feeling, la scommessa e le nuove regole anche rispetto al libraio. Ok, allora io direi a questo punto, visto che abbiamo questo grande preambolo, ci siamo fatti tutte queste lodi, andare a vedere dal vivo, no? Questo libro. La storia di questa cabina. La storia della, insomma, un brano estratto dalla storia di questa cabina. Tra l'altro il libro, come dicevo, rendo omaggio a Piero Ciampi e dopo sentiremo anche le canzoni per la Gioia d'Alessia, che qui è entusiasta. Allora, leggiamo la storia di questa cabina. Cosa è successo? Non mettere qui a un giorno ci avevano chiusi. Anzi, ho sbagliato qui. Questa cabina verrà rimossa il giorno 3 luglio alle ore 17. Siamo bambini, fate le orecchie, bambini. Porca troia, no, non possono farlo, mi dico. Questa è la cabina della mia prima dichiarazione, quando la fagiana mi dette due di picche. Non esistevano i cellulari allora. Credo che Guglielmo Marconi fosse ancora vivo. Non ricordo chi mi avesse dato il suo numero. So solo che la chiamai perché mi piaceva, tanto per usare un eufemismo. Un giorno ci avevano chiusi per scherzo dentro un garage ed eravamo rimasti immobili nel buio senza parlarci. Poi qualcuno aveva tirato sul portellone cigolante e il sole del quartiere aveva fatto irruzione, ricordandomi che ero un fesso a non averci provato. Mi rispose sua madre: mi passa Susanna per favore? Chi la vuole? Sono un amico. Me la passò davvero. Nella cornetta ascoltai la voce della madre di Susanna attraversare le stanze: Susi, ti vogliono. Lei raccolse il ricevitore e finalmente mi rispose: chi parla? Sono io. Io chi? Alessandro, quello del garage. Ah, sei tu, che vuoi? Niente, ti volevo dire se ti andavi ad uscire con me. Non posso, esco già con Renzetti. Ci rimasi talmente male che non ce la facevo a venire fuori dalla cabina, me lo ricordo come fosse ora. Quelle porte maledette continuavano a sbattermi addosso, forse perché la vergogna era diventata più grande e non riuscivo a passarci. Questa stessa cabina vogliono sradicarla da lì come un albero e portarmela via. Così decido che mi opporrò con tutte le mie forze. Sarà la mia battaglia estiva, l'ultima dell'anno, altro che zanzare, parcheggi, insolazioni. Il mercoledì dello smantellamento decido di barricarmici dentro. Quando arrivo sono le 12 e ho con me il pranzo al sacco: una schiaccia al pomodoro, mozzarella, maionese, wafer alla vaniglia, una banana, una lattina di Moretti gelata, anche se ormai è calda. Proprio dentro non riesco a rimanerci a lungo perché si soffoca. È come fossi in un bagno turco, ogni tanto esco fuori e mi siedo sulla panchina lì accanto a fumare. Dai palazzi che sbucano sulla strada, i muratori stanno ristrutturando un appartamento. Sento le loro voci alternarsi al rumore degli attrezzi. Tutto intorno l'erba selvaggia brilla al sole. È quasi luna. Fa un caldo della malora e non c'è un filo d'ombra. seduto sulla panchina, mi mette a mangiare e mi chiama Serena. Ma dove sei? Sono in via Naudi. Ma fa che? Sto facendo un sit-in. Un che? Un sit-in. E per cosa, scusa? Vogliono demolire la cabina telefonica. Quale cabina telefonica? Quella vicino alla casa dove abitavo da piccolo. La sento imprecare. Ma che c'entri tu, me lo spieghi? Come che c'entro? È la cabina del mio quartiere, lo capisci? Tu sei completamente andato, dice rassegnata e riattacca. Finito di mangiare, vado a prendermi un caffè al bar più vicino e torno lì. Non so nemmeno le due e sono già cotto. Non ce la farò mai ad arrivare alle 5, mi dico. 20 minuti dopo arrivano Serena e Francesco, mio figlio, ha qualcosa in mano. Tieni babbo, questo è per te, dice passandomi la gabbietta di Woody. La prendo e mi viene quasi da piangere. Torna a casa, cosa fai lì dentro? Più tardi torno, te lo prometto. Serena, togliendosi per un attimo gli occhiali, con uno sguardo mi saluta e poi scuote la testa, quasi le scappa da ridere. Passo a prenderti tra mezz'ora, Malcolm X, dice alla fine. Tutte e due risalgono in fretta e fuori in macchina. Rimasto solo, guardo la gabbietta di Woody. Come questa cabina è vuota. Non c'è più vita dentro, e allora capisco che chi si radica nei ricordi lo fa per timore e basta. Perciò mi alzo da dove sono rinchiuso, apro le ante della cabina ed esco. Con la gabbietta di Woody in mano, senza guardare attraverso la strada, e sento un clacson sturarmi le orecchie. Poi il sibilo potente dei freni. Una macchina si arresta a pochi metri da me, alzo una mano per scusarmi. Da dentro l'abitacolo vedo l'uomo alla guida a fissarmi, con in bocca sul parabrezza a scandire lentissimamente una parola. Vaffanculo. Adius, piacciati, vaffanculo. Sono rivolto al protagonista, autore. Che ormai ti fai stirare, e poi non hai sentito il libro. Questo è il terzo atto di questa fantomatica trilogia. John Fante c'è? No, in questo caso al posto. Nel precedente c'era John Fante ad accompagnarmi, a farmi ammettere. Questa volta invece c'è Piero Ciampi. Tutti due estremamente contenti di aver. Sarebbero. Anche l'amore, lei ha adottato un altro. Come? Hai adottato un altro. Quindi ho adottato un altro. Di solito sì, non era molto felice la decisione Fante. No, assolutamente no. Anche se poi John Fante mi ha fatto un bel po' di compagnia, perché comunque è uno scrittore che amo. Adesso ci accompagna anche Piero Ciampi. Allora, Piero Ciampi lo ascoltavo dando a scuola, perché ora nel libro racconto un po' il motivo di questo innamoramento, di questa scelta. Quando andavo a scuola a fare le supplenze l'anno scorso a Monte Rotondo, il paese in esilio a Monte Rotondo, mi sentivo un po' solo, no? E ascoltando la solitudine che di Piero Ciampi, che traspare in modo potente dai suoi testi, mi sentivo capito, compreso. Per questo ho detto, andiamo insieme Piero a portare fuori questo libro, a cercare di spingerlo, no? di far sognare la gente. E lui non ha risposto nulla. Chi taccia consente, dico vabbè, ci metto Piero Ciampi. Noi abbiamo preparato stasera per questo piccolo spettacolo. Tutta la discografia. Una piccolissima selezione di brani che sono presenti nel libro. E quindi se andate a comprare verranno citati, presi dei versi, raccontati. E quindi stasera ve li facciamo ascoltare proprio all'osso. Strigne, togli gli orpelli. Iniziamo. Se sono solo, come mai non una lira, tu lo sai, perdonami. Sono stato Chiesto dove andava. avevamo pensato di fare una cosa a Bobo Rondelli, quindi una canzone è rimasta di Osteria, questa, che si chiama Il Natale del 24. fosse un artista. Detesta lavorare intorno a un parassita. Vive male la sua vita, ma lo fa con grande amore. Perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta e spedisce. Ultima. The last song. The last song. Questa è quella che dà il nome al libro, yeah. E finisce con il vaffanculo. Come si chiama? Il vaffanculo. Boh, forse alla fine, sai. Il tuo viso esiste fresco. Sera scende dolce sul porto. Grazie. creare lì, guarda, sì. E ritorna. Poi ne parliamo ai tre angeli. È in corso una sottoscrizione di idee per il trittico, dato che abbiamo intenzione di pubblicare i tre in volume unico o in cofanetto, ma lo vedremo secondo come chiamare il trittico. Io ho già lanciato l'idea, ma ho visto qualcuno il nome dallo tu, tre angeli, però è un'idea, quindi mi sembra ci sia stato dai, ci sta che l'Angeli Band si esibirà di nuovo sabato 8 settembre a Pitigliano, nella più bella libreria del mondo, come praticamente noi diciamo, affermiamo, in un pomeriggio al mattina è tributo a Tiziano Terzani, con svariate, lo leggerete anche sul sito. Pomeriggio, cioè il pomeriggio degli Sconfinati, e il pomeriggio degli Stregoni, perché ci sono di nuovo Alessandro come autore di Adius, c'è Daniela come autrice della vita trema, chi è il terzo? Ecco, e di nuovo la performance, ci sono i vincitori, tra i quali c'è anche Alessandro, quindi del premio Stregone. Senza inciuci, però diciamo. Il premio Stregone senza inciuci. Perché mi ero stufato di assistere ogni anno a questa pantomima, questo teatrino già scritto prima da loro, dai grossi editori, quantomeno da uno, perché c'è un solo editore, c'è un unico editore che è un delinquente naturale, come avevo detto prima, si chiama Silvio Berlusconi. E allora abbiamo pensato, ma perché loro il premio Strega con inciucio e con finzioni, perché hanno sposato Maria Linea, l'editore unico delle finzioni, quando è morta la letteratura, perché è morta la letteratura del Novecento? Per po' o per tanto che c'era di grandezza, quando si sono affermate le finzioni, quando Mondadori è entrato in Einaudi, quando Berlusconi è entrato in Einaudi, ha comprato Severino Cesari e Repetti per creare Stile Libero, affermando che la letteratura da quel momento in poi era una letteratura di finzioni. La letteratura di finzioni, come assistia quando nessuno lo conosceva, Niccolò Manniti, è quella che non importa saper scrivere, quello che importa è un copione in grado di affermarsi per essere poi ospitato in serie televisivi o in schifezze televisive. Questa è la finzione italiana, perché la finzione in America, in Inghilterra, in Germania, tutto il mondo, anche in Burundi, è altro, è letteratura. In Italia la finzione mondadoriana, la finzione berlusconiana, e a Manniti ce lo dichiarava, io non so scrivere, ho detto al mio editore in Audi che non so scrivere, lui mi ha detto non importa, non è un problema, perché quello che conta è gli argomenti che tu tratti pur non sapendo scrivere. Quindi festival Lo Stregone senza il Ciuci, Alessandro è uno dei tre, potrà dirci in due parole l'argomento. Quello che mi preme è che una delle tre, una scrittrice donna secondo me con grande qualità, a cui ho già pubblicato un libro, Mille Lire, Il Partigiano Dicca, la storia del padre partigiano, generoso, oltre che bello. Gli americani quando entrarono a Massa Marittima lo volevano come protagonista del film, tanto era bello, della liberazione, cioè l'entrata degli americani a Massa Marittima. La Antonella di Massa Marittima raccontò la storia del bisnonno che quindi nel Novecento, per fame, scelse di andare in America per tentare di riscattarsi dalla fame che imperversava anche qui in Marenne. Tutta la vicenda della decisione, del viaggio, della permanenza in America e del ritorno è raccontata in uno dei tre racconti del premio Stregone. Ne parleremo con gli autori, ma anche con chi verrà, sabato pomeriggio dell'8 di settembre. Prima di poi vediamo, mi preme ringraziare Simonetta, perché non l'ho fatto prima. Per facciamo questo applauso a Simonetta. Il decimo anno che viene la mia presenza, forse ancora non c'era festa al letto, noi eravamo già lì con i libri. Tra l'altro 17esima del Clorofila e 17esima del Festival Resistenza. Mettiamo una combina. Anche facciamo rientrare i documentari film già Pitigliano e viceversa. No, Proiettatemi per via. Proprio dire. Attenzione al quello diciamo di letteratura. Abbiamo la parente di Azzamorato. Beh, grande, Azzamorato è una delle grandi scrittrici del Novecento, Corriere della Sapienza, Elsa Morante e la compagna di Luciano Bianciardi, da Maria Jatowski. Maria Jatowski. Sì, alla quale abbiamo già ripubblicato due romanzi che uscirono per Einaudi e un inedito. Trovate questo librone? Sì, quali sono, diciamo? No, abbiamo trovato. Diciamo buttato i libri, hanno buttato. Vabbè, insomma, noi abbiamo messo un po' di carne al fuoco. Se avete delle domande da porci o da porci. Siamo qui, siamo... Non solo domande. Ginocchio. Sì, proprio ginocchio, perché sennò in piedi ero troppo... Frugate nelle ferite. Ad Alessandro, perché l'idea di una trilogia e su quali cardini? Allora... L'idea della trilogia è nata quando ho iniziato a fare la stagione alla Pop. Io ero disperato perché insomma non sono abbastanza imbranato in tutte le cose che faccio, quindi lavorare in un supermercato mi dava un po' ansia. E quando ne ho parlato a Marcello di questa ansia, lui mi ha detto: mi puoi prima scrivici sopra il racconto. Dal libro è nato tutto, no, ma devi continuare. Questo libro gli è piaciuto molto, per cui dice: no, ma devi continuare a scrivere. Adesso ci fermiamo, però abbiamo fatti tre. Come, io l'ho paragonato, è un mix, ma senza copiare nessuno. John Fante e Philip Zero. Qui frugate pure nelle ferite della mia enfasi. Ma chi c'è per contenuto, per stile, per freschezza, per capacità di autocritica e di critica della società? C'è. Da una parte lo spiritaccio di John Fante, no? Che si racconta, non ha problemi, non ha pudore, non ha, e dall'altra c'è la provincia di Filippo Roper, no? Poi è chiaro che non copia nessuno dei due, secondo me, però la sua grazia, la sua bellezza. Anche perché Filippo Roper l'ho finito di leggere una settimana fa. Perché io non posso leggere. Però devo dire, è stato un... Filippo Roth o Fante? Qual è meglio secondo... Sono due grandi, sono due... Che tipo di affinità avete? Abbiamo maggiore affinità con l'uno o con l'altro? Diciamo se... Fante è più... È più... Forse è più semplice trovarsi. È brava, sì. Ma la provincia... Cioè Roth fa la provincia americana. Roth è una più... Per esempio, io per come la vedo... terzo di fila adesso sto leggendo, scusa, un comunista, prima ho letto, l'ho finito, è Pastorale, prima l'ho letto, la macchia umana ancora di più, è sì. Enorme, cioè non... era per me inarrivabile. Però. Allora io come psicologo, come qualità del linguaggio, come qualità della scrittura, come capacità di incastri, come ti porta partendo da un bicchiere che vede e poi... cioè, è inarrivabile. Da studiare, da rileggere, cioè, specialmente per chi scrive. Come umile scritto lucro di autobiografia, mi sono letto Svevo, Fante e Roth. Con Fante mi diverto, cioè quando leggo Roth a un certo punto dico sì. Roth ti basta male. No, nel senso però cavolo, ma ti mette la prova. Qui, invece con Fante proprio ti apre proprio. Sì, Fanti sono il cuore, insomma, vai in empatia con più facilità. Con Roth comanda lui, cioè non ci parli mai con lui, non arrivi mai a avere. Poi un libro letto, però insomma mi dà l'idea che gli piace molto tenere. Ora, vorrei scendere su cose sessuali. Capite il miracolo? Tenere... Non c'è una riga di finzione, sì, forse qualche riga di finzione c'è, perché poi si è scoperto. Ma sì, quella della capacità di raccontare la famiglia, la provincia, quella città a Roma, senza una riga di finzione, legge una trilogia nel suo piccolo, per il punto, Roma è un gigante, Luna, Nerocco, forse si coltiva. Magari ha seguito bene, no? Ma perché è in ginocchio? Sì, esatto, no. Questa è la bellezza, no, la bellezza di fare l'editore all'incontrario, vero Roberta? Io mi sono trovata bene con te. Ho fatto uno solo libro con te, però dico la verità. Io penso, ho girato qui editori. Possiamo nominarlo per chi non lo conosce. Sì, ci scusiamo per il disagio. Poi ho controllato prima, 4.197 download in un anno e mezzo. 1.000 copie stampate. Non lo so, guarda, mi c'è qualcosa di... Pensa se avessimo messo un euro a scaricamento, che se avremmo... No, nel senso, allora, per quelli che sono librai qui potrà dire... avere 4.197 lettori, aver venduto piccolo successo, no? Nell'editoria tradizionale sarebbe un fenomeno, no? Qui allora ci sarebbero due fenomeni quasi, perché sì, in effetti i libri finalisti allo Strega li leggevo l'anno scorso perlomeno, nella prima settimana in 5 avevano venduto 8.000 copie, 9.000 copie. Sono cifre false. Quindi sono piccole, piccolissime, minuscole cifre, no? E io mi sono trovata bene, Marcello, perché questo... Intanto perché siamo degli esperimenti e tutto quello che è esperimento è... Delle case, è bello. Diventiamo delle case. Tutto quello che è nuovo... Dei laboratori, ecco. Dei laboratori. Bello essere un laboratore, fare qualcosa che gli altri non hanno fatto. Non teorico, a pratico. Barbare scuole di scrittura. Marcello, se ti va di raccontare anche brevemente l'esperienza Strade Bianche. Che cosa vi dicevo? Io sono partito che come editore all'incontrario e la nominazione era data Luciana Bellina, si dice contadina, in un carteggio l'ho avuto quello. All'incontrario è questo, io ho fatto 40 anni di editoria critica, ma non rispettando nel mercato. Ci ho messo 40 anni per capire che non era più aria di continuare a misurarmi col mercato. Il mercato è drogato, è dopato, è in mano un delinquente naturale. In Italia c'è un solo editore, un solo distributore, un solo giornale, una sola televisione, vi è chiaro? Poi alcune sigle varie, miste, fritti misti, però è uno solo, che è il Tribunale di Milano, dichiarato delinquente naturale, che delinque quando non c'è bisogno. Quando ho scoperto che c'è bisogno... Quando ho scoperto che non c'era più niente da fare rimanendo sul mercato, con la nostra criticità, perché come... Non so, avete presente la foto in Vietnam, c'era un famoso massacratore filoamericano che sparava la tempia ambientalmente in ginocchio, ecco, la metafora era quella due o tre anni fa. Se continuava a rimanere con stampa alternativa nel mercato, avrei fatto la fine il poveraccio e col tipo con la pistola alla tempia. Allora ho fatto sì, ho affidato la casa editrice ai miei amici di lunga data, ho affittato un marchio e ho deciso, io ritorno alla macchia, esco da questo mercato, ma esco riscrivendo le regole che non sono ancora definitive. Ex novo, da capo, il libro deve essere gratuito in rete, il libro deve essere senza copyright, il libro è bene tuo. I nostri libri, sì, i nostri di Strade Bianche devono essere liberi in rete, scaricabili e leggibili, non devono avere copyright, il possesso rimane a lui. Guardate che l'accordo qual è? Tu mi dai licenza, li mettono gratuitamente, e di fare un'edizione cartacea il cui prezzo assomigli a quello tipografico. Poi il passo avanti, il pezzo lo fa il lettore, quindi deciderà lui. E l'edizione cartacea viene fatta in ragione di quello che sta succedendo, metà della tiratura aspetta loro. Così i diritti sono assolti in partenza, a fronte di fatture del tipografo. Poi la sfida più grossa è la qualità, ragazzi. Se la vincitrice del premio Strega si evince dopo aver letto qualche pagina, che sennò che non sa scrivere, che il suo libro non è stato fatto editing, non è stato corretto, vuol dire qualcosa non ha la macchia di proporre qualità alle condizioni che vi ho detto. Poche parole è questo. Io dico che è un esperimento, è un laboratorio, è un percorso in progress che andrà avanti passo passo grazie alla complicità di lettori. Ma aggiungo che il passo mio successivo è che il prossimo anno qui troverete tutti i libri delle Strade Bianche di stampa alternativa, dove io non farò cassa. Verrete, vi prendete, c'è un territorio trasparente, metterete i soldi, perché il massimo è il, oppure è, anche altre cose, ortaggi, quelle cose. Sì, infatti i pomodori è il massimo nella richiesta di complicità con il lettore, cioè o il lettore mi è complice o io ho perso. Certo. Ho perso in partenza. Il lettore deve diventare complice. Quindi diventare come me, che sono, mi ritengo editore guerrigliero, il lettore deve tornare a fare il guerrigliero. scovare qualità e partecipare a esperimenti, laboratori, con iniziative come queste che dichiarano guerra al regime editoriale, al regime culturale, pensando che c'è un altro modo più umano, più dalla parte del lettore, di fare l'editore, lo scrittore, eccetera. Complice, poi collezionista, e poi dire, uno entra e stai dando testimonianze sui social in questi giorni, uno entra in libreria di Marcella Pedigliano, se sei un lettore ti viene un colpo, perché porteresti via tutto, cioè compreresti tutto, non resisti, no? Anche Cioè, è bellissimo per le molte scriverlo. tematiche affrontano nel Sì, per catalogo, la esatto. qualità, per i Anche cataloghi che ci sono, quindi insomma, sono libri, insomma, poi di moltissimi di argomenti, diverso. E le E maglie le della maglie, felicità. Le per non parlare di fatto insieme. Va bene, allora che si fa? La Grazie. chiudiamo qui? Ora Sì. spumante, spumante, No. La spumante. spumante!